America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Natale ormai alle porte, buone notizie per la Casa Bianca, un Natale felice direi per Barack Obama, perché è riuscito non soltanto a passare una delle leggi più importanti dal punto di vista della sua politica estera, e cioè la ratifica del trattato START che ha firmato con la Russia, ma potrà davvero raccontare agli americani di aver chiuso l'anno con una volata, soprattutto quest'ultima, molto natalizia, e cioè con questo sogno di un mondo privo di armi nucleari. Il trattato START, ricordiamolo, è un trattato firmato dal presidente Obama con il presidente russo Medvedev a Praga la scorsa primavera. I due leader hanno concordato sull'opportunità di ridurre ulteriormente le testate nucleari americane, di restare con un arsenale più contenuto e soprattutto di procedere con le ispezioni. Trust but verify, fidati ma verifica, diceva il presidente Reagan, è uno slogan che Barack Obama ha immediatamente adottato, perché da qualche tempo ormai non si sapeva più nulla di quel che capitava negli arsenali nucleari russi, e dunque con questo trattato si potranno fare anche adeguate verifiche per poter avere la certezza che i russi rispettano le regole del gioco. Ma perché questo Natale positivo per Obama? Beh, perché questa ratifica, che sembrava impossibile fino a, diciamo, una settimana fa, è in realtà il terzo successo legislativo bipartisan di questo presidente. Riassumiamo: è riuscito Barack Obama a trovare un compromesso con i repubblicani sul fronte fiscale, ha prolungato i tagli alle tasse del presidente George W. Bush per 2 anni, è riuscito ad avere sussidi per la disoccupazione e riduzione delle trattenute sociali in busta paga dai repubblicani per altri 450 miliardi di dollari, un pacchetto totale da 858 miliardi di dollari, un carico complessivo minore sull'americano medio, una misura di stimolo sull'economia che dovrebbe rilanciare l'occupazione l'anno prossimo. Il secondo passaggio bipartisan è stata la seconda vittoria di Obama sul passaggio della legge che elimina quella forma ipocrita su cui si era trovato un accordo, don't ask, don't tell, non chiedere, non dire, relativo ai gay nell'esercito. Ve lo ricordo, le forze armate americane avevano una regola secondo cui i gay dichiarati non potevano essere arruolati. Bill Clinton 17 anni fa si inventò questa straordinaria formula: noi non ve lo chiediamo, voi non ce lo dite e voi gay potete restare lo stesso nelle forze armate. Ebbene, Barack Obama aveva promesso che avrebbe superato questa ipocrisia in modo da rendere trasparente l'ingresso dei gay nelle forze armate. Di nuovo è riuscito a formare una maggioranza con i repubblicani, questo la settimana scorsa, e a passare questa legge che ha abrogato questa ipocrisia. Infine, vi dicevo, il trattato START. Dunque, il Natale di Obama è felice perché? Beh, perché riduce le tasse degli americani, compie giustizia nei confronti dei gay e soprattutto oggi si presenta con un mondo in prospettiva meno pericoloso dal punto di vista nucleare. Mi fermo perché abbiamo in linea con noi Paolo Valentino, commentatore, editorialista del Corriere della Sera. Fino a qualche tempo fa era a Washington come corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere, ha intervistato qualche mese fa alla Casa Bianca Barack Obama, e dunque buongiorno Paolo, sei in linea? Buongiorno Mario e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Eccoci Paolo, beh, intanto fantastico risentirti. Hai visto che il vecchio Obama, giovane, ma insomma questi 2 anni sono stati un po' pesanti per lui, è riuscito a sfangarla bene in queste ultime settimane. Che dici? Come sarà il suo Natale? Mario, pensando al presidente, pensando a quanto è successo in questi giorni, mi è venuto in mente Mark Twain. Allora, scusa, prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo un po' ai nostri ascoltatori chi è Mark Twain, questo straordinario scrittore americano della grande vecchia America. Beh, l'autore di romanzi fondamentali dell'identità americana come Tom Sawyer e Huckleberry Finn, grande cantore del Mississippi, uno degli autori che più di tutti hanno contribuito a costruire in letteratura l'identità americana. Grande letteratura, grandi emozioni per gli americani, e oggi uno degli autori più letti, anche più rivalutati, perché poi ai suoi tempi aveva avuto anche qualche problema, era un personaggio considerato così un po' bizzoso ogni tanto. Però cosa disse Mark Twain quando si diffuse? Un viaggio dall'Europa, dove fra l'altro andò a Berlino e raccontò la modernità di Berlino, dicendo che al confronto Chicago sembrava una città di provincia. Tornato in America si accorse che si era diffusa la notizia della sua morte, notizia naturalmente falsa, e lui uscì con questa fantastica dichiarazione, disse: le notizie sulla mia morte sono state grandemente esagerate. Ecco, mi sembra che questo sia un perfetto slogan per il presidente Obama: le notizie sulla morte politica di Barack Obama nei mesi scorsi sono state grandemente esagerate. Beh, è vero, però diciamo ha perso le elezioni, il presidente sta convergendo verso il centro, c'è una nuova epoca politica in qualche modo, un sentimento di dialogo, di pace, adesso mi allargo, un sentimento natalizio nella capitale, che dici, non era quello che si sentiva un anno fa, sei mesi fa? No, non lo era affatto, anzi il problema è che Obama sembra improvvisamente essere in grado di tornare Obama e di, in un certo senso, se non coronare, avvicinarsi al suo sogno di cambiare la politica di Washington e applicare quella famosa formula a cui lui tanto cara nella campagna elettorale, quando diceva disagree without being disagreeable, cioè dire essere in disaccordo senza essere sgradevoli. E credo che in questo scorcio di fine d'anno le tre cose che tu hai giustamente menzionato e commentato opportunamente nella tua introduzione lo dimostrino. Ecco Paolo, sì, infatti Obama è così, è felice, abbiamo visto di nuovo questo suo sorriso a 360 gradi che sicuramente gli ha consentito a suo tempo di vincere le elezioni. Ma torniamo al nucleare, fermiamoci un attimo alla notizia del giorno, cioè al passaggio fondamentale di questo trattato START. Ci sono state un po' di critiche sul New York Times, direi non tanto critiche. David Sanger dice: beh sì, è riuscito a passare lo START, però il futuro delle sue ambizioni, e cioè quello di avere un mondo completamente libero dal nucleare, quello sarà un po' più difficile. Tu ricordi che a Praga eravamo insieme al vertice in cui si firmò il trattato START, ci fu poi un rilancio contro i test nucleari, ci fu poi il vertice di Washington poco dopo. Puoi raccontare un po' cosa è successo a quell'epoca? Beh, sicuramente il discorso di Praga e la conferenza di Washington furono i due momenti più alti di questa visione di politica estera di Barack Obama, che immagina appunto un mondo senza armi nucleari. Ora, ha ragione Sanger quando dice che il problema sarà meno semplice di quello che si pensa. Però Obama con il voto sullo START realizza due cose: salva un pilastro fondamentale della sua politica estera, cioè il rapporto con la Russia, e ovviamente getta la prima base del prossimo passo, perché il prossimo passo è un nuovo accordo di ulteriore riduzione delle armi nucleari bilaterale con i russi. Quindi Obama non si è mai fatto alcuna illusione che il mondo senza armi nucleari sia dietro l'angolo o sia per gli 8 anni della sua presidenza, ma sicuramente questa, cioè l'approvazione del trattato START, è il passo nella direzione giusta. Ultima cosa Paolo, guardiamo oltre, guardiamo al 2011, ho detto prima più volte, tregua armata con i repubblicani che devono identificare nell'anno che arriva il candidato che si scontrerà contro di lui. Ci sono state dichiarazioni negative sul passaggio dello START, guarda caso di Sarah Palin e di Mitt Romney, che sono fra i due più agguerriti candidati contro Barack Obama. Sarà uno di loro il candidato? Beh, io credo che nella letterina di Natale, nella letterina di desideri che Barack Obama ha scritto a Babbo Natale, c'è anche quello di regalargli Sarah Palin come candidata alla Casa Bianca. Sarah Palin è sicuramente la candidata più popolare nella base repubblicana, ma è anche quella che probabilmente Barack Obama batterebbe più facilmente nel suo tentativo di essere rieletto. sarebbero mille altre idee e notizie da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarle su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, atmosfera natalizia, anzi, scusate, atmosfera super natalizia, perché domani è una sorpresa per voi, l'atmosfera natalizia dentro la Casa Bianca. Ho avuto la possibilità, sono stato invitato al party con il presidente dentro la Casa Bianca, musiche, cotillon, ma tutto questo sarà domani. Per oggi, canzone natalizia della giornata, Frank Sinatra, Jingle Bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.